L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, lo spazio settimanale che Radio 24 in collaborazione con Euronet dedica all'Europa. Vogliamo raccontarvi un'altra Europa, lo facciamo attraverso punti di vista diversi, attraverso notizie, abitudini, stili di vita, e oggi partiamo proprio da uno stile di vita. La Stampa titolava qualche giorno fa: niente coda, siamo inglesi, il mito va in frantumi. Riprendendo un'inchiesta del Daily Telegraph, racconta che sì, pare che quella che era la coda, quella che era la pazienza tanto ostentata dagli inglesi, beh, questo mito sì, si è andato in frantumi. Pensate che un londinese medio pare che perda la pazienza dopo appena 2 minuti, quando per esempio è in attesa dell'autobus, mentre pochi anni fa questa pazienza veniva persa dopo 5 minuti. Fa un po' sorridere, però sono quelle notizie estive che ci piace raccontare, che comunque fotografano anche altre culture, altre nazioni. Per commentare questo articolo, questo mito, per capire se veramente è andato in frantumi o se invece è una notizia così di agosto, abbiamo invitato un saggista e storico britannico. Diamo il benvenuto a Richard Newbury. Ciao Richard. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao. Scusa se ti abbiamo fatto attendere qualche minuto, hai perso la pazienza? Non per niente, no. Io aspetto sempre ancora. La cosa importante è che non si salta la coda. Ecco, qual è la notizia? Nel senso, gli inglesi non amano più aspettare o anche loro hanno preso questa abitudine italiana, per esempio, cioè che la coda a volte è fatta proprio per essere saltata? Prima non si salta mai la coda. Si può abbandonare la coda, ma questa neanche è una pubblicità, non un articolo. È una pubblicità per la moneta plastica, vedere che... Sì, è vero che c'è sempre l'alternativa. Io questa settimana ho comprato un portatile alle 5 della sera, alle 9 della mattina ero a casa. Sì. E quindi c'è sempre un modo alternativa e sempre di più le persone vanno online. Ma questo articolo è un pezzo di pubblicità per Barclaycard, che vogliono che i negozi pagano loro per utilizzare sempre la plastica, ma la cultura di stare in coda quando si deve non è cambiata per niente. Per esempio non si perde pazienza con il pullman, perché non si deve aspettare il pullman, ma visto che c'è un mercato, ci sono tante possibilità, le persone sì, dopo 2 minuti, visto che ci sono altri modi di comprare tutte le cose, anche la verdura, arriva a casa in effetti l'articolo, la ricerca darebbe la colpa di questa nuova tendenza proprio a internet, cioè all'abitudine di fare un click e poter fare la spesa da casa, poter acquistare i biglietti online, e quindi il tutto è subito che la tastiera ti permette di ottenere. Sì, c'è sempre questa scelta che ovviamente conviene, non è che si può fare le spese anche dall'ufficio piuttosto anche di perdere pranzo, per esempio. Poi ma c'è anche l'internet crea delle code, nel senso che quando io normalmente faccio tutte le cose che normalmente faccio alla posta, anche pagare patenti, tutte queste cose online, ma ogni tanto con un pacchetto devo andare. E c'è sempre una coda, perché intorno a noi hanno chiuso 4 delle 5 uffici postali, perché ogni volta che utilizzo l'internet o la posta elettronica, ovviamente tolgo soldi da loro. E lì trovo che anche se ci sono 10 persone in coda, tutti chiacchierano fra di loro, non c'è niente da fare, perché non si fa in ufficio postale se non proprio si deve andare. Ma Richard, tu viaggi spesso anche in Italia. Sì, sì. Gli inglesi fanno la coda anche in Italia, quindi? Per esempio all'aeroporto? Questo è interessante. Sì, provano, ma poi si adattano alla cultura locale. Come ho anche trovato che, visto che Londra, il 30% della popolazione sono stati nati al di là delle frontiere inglesi, e anche lì adattano alla cultura britannica. Non so che cosa succede. Okay. Quindi gli italiani in Inghilterra fanno la coda? Gli italiani, per forza, perché ci sono pressione, come io dico, di teatro, non di dramma, che c'è un'atmosfera forte. Se qualcuno prova a saltare la coda per il pullman, prima di dire qualcosa le persone fanno quello che posso dire, è un'atmosfera teatrale che si sente, sì. Se però non sentono questo disappunto, allora le persone dicono qualcosa, perché noi c'è una forma di una cosa di giustizia collettivo, di rispetto reciproco anche, insomma. Esatto, che... è proprio quello che tiene insieme. Ho messo un articolo anche che come abbiamo inventato le regole per lo sport, come il calcio, eccetera, abbiamo sempre, che sono molto importanti per gli inglesi, il fair play, ma anche come diceva Bill Shankly, il famoso manager di Celtic, Glasgow Celtic, ha detto che non è che alcune persone pensano che il calcio è più importante della morte e della vita. Lui ha detto no, è molto più importante della differenza di una questione della vita o morte. E anche questo, la coda rappresenta il modo di funzionare in modo collettivo, anche perché gli inglesi raramente parlano fra di loro, anche un posto dove si cominciare a chiacchierare. Mm-hmm. Ecco, sempre in questo articolo si parlava anche di nuove cattive abitudini che tendono a prevalere in Inghilterra. Per esempio, invece del tè, il tè delle 5, si beve ancora il tè delle 5? Cioè, c'è chi lo beve o anche questa è solo una leggenda metropolitana? Non metropolitana, era un momento in cui storicamente arrivava 200 anni fa, quando le donne potevano ricevere alle 4, perché le 5 era nella zona industriale britannica, significa la cena dopo il lavoro. Certo. Quindi anche lì c'è un problema, perché per tea è allora quello, mentre il tè era un momento in cui le signore potevano ricevere il marito fuori, ma era un momento in cui si poteva ricevere delle ospiti. Questo modo di comportarsi è andato con le donne lavorano, tutto questo. C'è anche l'importante l'11 mattina per il caffè, per esempio, un'altra... ma caffè a casa, perché gli inglesi ricevono molto di più a casa che gli italiani. È quasi impossibile entrare, valcare, non so, il soglio di una casa italiana. Insomma, anche questa è una differenza culturale, in effetti. E qui l'articolo diceva che invece del tè delle 5 è più facile ritrovarsi per bere una birra in piena notte, ma insomma sono anche generazioni diverse. Esatto. Io sono cinico e dico che è agosto, poi anche tutti i giornalisti sono in vacanza, quindi non so chi ha scritto questo articolo. E quindi hanno bisogno di cercare notizie. Richard, prima di salutarci, Cameron, il primo ministro inglese, è stato in Italia pochi giorni fa, sì. È arrivato con 40 minuti di ritardo. Questa notizia era su tutti i quotidiani italiani. E questo ritardo è stato raccontato anche sui quotidiani inglesi? No, infatti veramente non è che... c'è stata una grande pubblicità. Notizia. Sì, sì, non è che questo è anche un governo che non è che annuncia le cose molto in avanti. Provano a non fare un governo, si può dire, governato dalla stampa. E ci stanno riuscendo? Sì, sì, credo di sì. Mi ricordo anche il famoso Attlee, primo ministro laburista dopo la guerra, che ha detto su addetto stampa che non voleva sentire che cosa dicevano i giornali, perché io faccio notizia, gli altri li scrivono, e accettava di avere un teleprinta soltanto perché poteva avere le notizie del cricket. Oh, ho capito. Questo è un modo. Quindi c'è una reazione contro si può dire che il governo sempre governato delle impressioni della stampa. Grazie davvero Richard per insomma averci fatto questo confronto. Grazie per aver torratomi italiano. non è molto insomma è un italiano, noi siamo pazienti, siamo inglesi in questo. Sì, quindi esatto. Gli italiani sono sempre molto gentili in quel modo. Stai tranquillo. Molto. Noi che mastichiamo la vostra bella lingua. Magari ci ritroviamo in una prossima puntata dell'Altra Europa per continuare a parlare di confronti culturali tra Italia e Inghilterra. Ciao e buon sabato. Beh, grazie mille. Europost-it. Secret Cinema è un ritrovo mensile a Londra per tutti coloro che vogliono sperimentare un cinema innovativo e stimolante. Sul sito si legge: Internet sta cambiando il nostro modo di vedere i film. Secret Cinema cambia il luogo dove vedere i film. La location sarà diversa di volta in volta. Potrà essere un'azienda in città, un teatro dismesso, un parco, il tetto di un palazzo o il parcheggio di un hotel a 5 stelle. Quello che c'è di certo è che fino all'ultimo minuto non verrà rivelato né il luogo né il titolo del lungometraggio misterioso. Spetterà proprio ai partecipanti indovinare di che film si tratti grazie agli indizi seminati lungo il percorso, oggetti, attori che interpretano alcune scene, eventi creati ad hoc. Sembra quasi una caccia al tesoro attraverso un viaggio surreale. Chi vi partecipa diventa protagonista dell'evento e parte del film. Hanno già aderito in 60.000 a questa comunità particolare. Per entrare a farne parte, visitate il sito www.secretcinema.org. Che sia l'inizio di una vera e propria rivoluzione cinematografica? L'altra Europa. È agosto, è tempo di vacanza, insomma non si può parlare di Europa senza ignorare la Romagna. Perché? Perché è meta turistica per eccellenza, da tutta Europa arrivano verso la costa romagnola, in particolare i tedeschi. Beh, in questi giorni su diversi quotidiani in Germania sono usciti tanti articoli su questo rapporto storico, insomma l'Europa, il mondo è più piccolo, c'è possibilità di raggiungere spiagge ovunque, ma i tedeschi hanno ancora lì la Romagna come uno dei loro obiettivi preferiti. Insomma, volevamo capire da dove nasce questo rapporto che mette forse il fattore umano al primo posto, e quindi abbiamo coinvolto una traduttrice e guida turistica tedesca che però lavora in Romagna, siamo nella zona di Rimini, e per capire cosa cercano e cosa trovano i turisti tedeschi in Italia diamo il benvenuto a Helga Schenke. Ciao Helga! Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buon sabato. Allora, tu accompagni ogni anno un sacco di turisti tedeschi lì in Romagna, giusto? Sì. Mm-hmm. E come mai i tedeschi amano ancora così tanto quelle zone? Ci sono state le alghe, dicono che i prezzi sono altissimi, puoi veramente raggiungere tutto il mondo ormai in poche ore, però la Romagna è ancora lì che calamita l'attenzione dei tedeschi. Ma da quello che sento io dai miei amici, anche così, è che loro sono venuti da bambini con i loro genitori, con i loro parenti qui alla costa romagnola, e era la loro prima esperienza all'estero praticamente. E oggi vogliono far conoscere ai loro figli questa esperienza. Mm-hmm. Quindi perché un po' snobbano, cioè c'è una fase turistica, diciamo, del tedesco medio che snobba un po' la Romagna? Sì, soprattutto gli accademici e intellettuali. Io proprio vengo da Heidelberg, una città universitaria, ma gli amici che vengono anche di questo ceto di società, quando hanno i bambini piccoli si rendono conto che ci sono certi vantaggi, no, in Romagna. Per esempio il mare non è molto profondo, dunque non ci sono tanti pericoli, i bambini sono contenti con una spiaggia, un po' di acqua, un po' di conchiglie, c'è il cibo che conoscono, la pasta, la pizza che per loro è conosciuto, dunque non ci sono tante difficoltà. Quindi rispolverano il piacere della vacanza in tranquillità, perché la Romagna comunque accoglie le famiglie, diciamo. Sì. Ecco, e poi abbiamo sottolineato il rapporto umano, nel senso che il carattere dei romagnoli, che è un carattere aperto, è un carattere festoso, è un carattere molto, molto accogliente, e piace al turista tedesco? Sì, si possono comunicare, sì, è solo che una volta si parlava più tedesco di adesso. Quello è, adesso comunicano un po' in italiano, un po' in inglese, ma i giovani italiani non parlano molto il tedesco, dunque è un po' diverso, però ci sono sempre alcune persone che riescono a comunicare. E i bambini si sentono bene quando sono a un bagno e il bagnino e come una persona di riferimento, dove quando c'è qualche difficoltà possono andare e dire guarda, ho bisogno che mi gonfi il mio, non so, quella cosa, l'animaletto che porto in acqua e queste cose. Adesso non so se tu hai avuto modo di sfogliare i quotidiani che sono usciti in Germania in questi giorni, non credo, perché insomma sei lì per lavoro. E però ecco, i tedeschi che arrivano in Romagna, che arrivano in Italia e in Romagna in particolare, si portano dietro anche dei luoghi comuni, comunque, se magari la prima volta che vengono lì, hanno nel loro bagaglio qualche pregiudizio nei confronti della Romagna. Sì, perché erano quelli dei film degli anni 70-80, e sempre anche quel tipo di costa, non è il modo di avere gli sdrai, ombrelloni, non è conosciuto a tutti i tedeschi. Si deve anche parlare di tutti questi tedeschi che sono venuti nell'89 della Germania dell'Est, che avevano sempre spiagge naturali, che non sono abituati agli sdrai. Questa è una novità per loro, di avere una spiaggia non naturale. Ecco, Helga, tu dove li accompagni i turisti? Ci sono mete preferite, mete privilegiate che hanno lì nella terra, nel riminese? Allora, io faccio Rimini praticamente come città, e anche la Rimini antica, praticamente i romani che hanno fatto le strade consulari, perché c'è il ponte Tiberio, tutte queste cose che si possono spiegare e che ai bambini interessano, anche quelli che vanno al liceo, che fanno latino, che hanno sentito tanto dai romani o da Asterix, per esempio, no? Dunque si può sempre parlare di questo. Dopo un po' le saline di Cervia, come si fa il sale, lì si può anche fare bird watching, ci sono i fenicotteri adesso, per esempio. Come si dice, scusa, come si dice fenicottero in tedesco? È una curiosità. Flamingo. Ah, flamingo, ok, quindi è molto esotico, poco tedesco come pronuncia, ma molto esotico come nome, in effetti. Helga, un'ultima domanda: hai mai conosciuto qualche tedesco che alla fine si è fermato per amore o per lavoro lì in Romagna? Beh, io sono un esempio, però conosco tanti, soprattutto donne. Però ci sono adesso anche degli uomini che si fermano qua per amore, soprattutto. E diventano... Il lavoro è un'altra questione. Quindi non diventano loro stessi operatori turistici? Alcuni sì. Però praticamente nella maggioranza dei casi è per amore che uno viene in Italia e dopo rimane. Un bagnino tedesco c'è? Un bagnino, io conosco una bagnina tedesca. Ah, ok, va bene. ci piace. Grazie davvero, Helga, ti lasciamo al tuo lavoro e buona estate a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie. Ciao. Ciao. Europost-it. Gli studi Walt Disney e il Politecnico Federale Svizzero hanno inaugurato a Zurigo un centro comune di ricerca, cioè il laboratorio Disney Research Zurich. I suoi principali campi di ricerca sono le animazioni in 2D e la grafica interattiva per i disegni animati, le immagini in 3D, la stereoscopia per il cinema e la televisione, oltre alle tecnologie di diffusione e interazione per i parchi divertimenti. Questo è l'unico centro di ricerca Disney fuori dagli Stati Uniti. L'altra Europa. E questi sono i nostri Europost-it, notizie, curiosità, spunti dall'Europa che anche voi ci potete segnalare all'indirizzo l'altraeuropa@radio24.it. E a proposito di curiosità, ci spostiamo in Danimarca, a Copenaghen, dove è partita l'operazione Cercasi Sirenetta. Eh sì, proprio lei, la Sirenetta, il simbolo di Copenaghen, è in vacanza, è a Shanghai per l'Expo e quindi si valutano sostituti a tempo. Sì, e volontari hanno un quarto d'ora di tempo per sostituire la sirenetta in modo da nascondere il buco, in modo che il turista che arriva e vuole fare la foto alla sirenetta, insomma, può fotografare un volontario che in quel momento imita la sirenetta. Abbiamo mandato un nostro corrispondente trovato al volo sul posto per farci raccontare quello che sta succedendo. Lui è laureato in disegno industriale, è nato a Novara, ma da 6 anni vive a Copenaghen, dove si è sposato. Diamo il benvenuto a Liborio Francesco Cannici. Ciao Liborio. Ciao, buongiorno. Hai fatto la sirenetta anche tu? No, guarda, no. Sincero, non mi sono ancora lanciato in questa cosa simpatica, diciamo, ma sì, però è veramente interessante, insomma, c'è di tutto. Immagino, c'è già un calendario, ci si può prenotare e esatto. In cambio di un... Come ho detto tu prima, è iniziato lunedì scorso, sì? E poi andrà avanti fino al 23, che poi tra l'altro è anche la data in cui si celebrerà il 98esimo compleanno della statua, quindi hanno pensato bene di fare diciamo, il gran finale la sera del 23. E per prenotarsi basta andare sul sito, che è 500mermaids.dk, sì? E dove si può trovare un quarto d'ora libero e poi dopodiché inviare una mail e avere la possibilità di utilizzare questi 15 minuti come meglio si crede per occupare lo spazio, come dicevi. Ma c'è una sorta di casting? Bisogna avere caratteristiche particolari o tutti possono provarci? Guarda, io ho parlato ieri con Jens Elquist, che è uno dei tre organizzatori, e mi ha detto che hanno ricevuto un po' di tutto. Da un modello nudo che voleva così andare su questa statua, sulla finestra della statua nudo, a un ballerino di carnevale brasiliano che aveva quattro costumi e continuava a chiedere ma quale devo usare, e alla fine poi ha deciso di utilizzare quello da pirata perché era più affine al mondo del mare. In effetti, perché uno può fare quello che vuole in quel quarto d'ora o deve tentare, sì, esatto, di imitare nel miglior dei modi la sirenetta? Ma guarda, dipende un po', io ho visto, c'era, dipende anche un po' dal personaggio. C'è stato ieri uno scrittore che si è messo a decantare pagine del suo libro, insomma, penso fosse uno scrittore amatoriale, una persona molto, molto composta, e poi alla fine si è sciolto come il ghiaccio del sole quando poi è dovuto incarnare il ruolo della sirenetta, perché ovviamente in questi 15 minuti si può fare di tutto, quindi da questa persona molto composta si è dopo trasformato in una persona molto più dolce, sdraiato su questa pietra a imitare la posizione plastica della sirenetta. Ci sono persone che magari si siedono anche soltanto perché è stato un po' integrato nell'arredo urbano, quindi è in un punto di passaggio, quindi molti turisti anche interagiscono in un modo o nell'altro con la statua, con il piedistallo della statua, senza neanche saperlo a volte. Quindi c'è un po' di tutto, c'è chi è riarrovato, chi si improvvisa, chi si cerca di imitare la posizione standard, la posizione classica della sirenetta. Insomma, un'idea bella, perché comunque attira sicuramente curiosità, e vuoi mettere il turista che invece di fotografare la sirenetta può lui stesso diventare sirenetta, sì, per 15 minuti. E Liborio, ricordiamo il sito per prenotarsi? Allora, è 500, c'è scritto come 500, e poi Mermaids come Milano, Empoli, Roma, Milano, Ancona, Imola, Domodossola, Savona, punto di K. Dai, adesso lo puoi confessare. Ti sei prenotato? Non ancora, ci sto provando. Vogliamo sto la foto. Sicuramente vi mando la foto. Grazie davvero e buon sabato. Ciao Liborio. Grazie anche a te. Ciao, ciao, buon weekend. Europost-it. I canali di Amsterdam diventano patrimonio dell'umanità. Il celebre reticolo d'acqua della capitale olandese fu creato tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo per risolvere i problemi derivanti dal terreno paludoso. Oggi quei canali sono stati selezionati, assieme ad altre 14 aree, da una super lista di 30 luoghi in lizza. I finalisti sono stati considerati tesori da preservare nel tempo, con un valore universale eccezionale, e pertanto inclusi tra le aree protette dall'UNESCO. Vanno infatti ad aggiungersi agli altri 890 siti già iscritti nella Convenzione del 1972, tutti da proteggere. 689 di tipo culturale, 176 di tipo naturale e 25 misti, tutti distribuiti in ben 148 paesi al mondo. L'altra Europa. Questa è l'altra Europa, vi raccontiamo l'Europa attraverso storie, persone e notizie. Infatti parliamo proprio di notizie curiose che andiamo a leggere sui quotidiani europei, e lo facciamo insieme a una delle voci di Radio 24, europeista da sempre, uno che ama frequentare il continente, lo conosce molto bene. Do il benvenuto qui in studio con me a Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Federico, buongiorno agli ascoltatori. Ma c'è una nazione d'Europa che proprio preferisci? Sì, la Spagna. Ah sì? È la, diciamo, mia nazione preferita, però in realtà poi mi piace girare un po' tutta l'Europa e scoprire questo continente che poi è così vario, così diverso, veramente. Io penso sia il continente più diverso e più variegato che esista al mondo, e quindi anche per le lingue, per le culture, per il clima, e quindi devo dire che vale veramente la pena viaggiare, girare per l'Europa, scoprirla e riscoprirla. E noi ti facciamo viaggiare attraverso i quotidiani europei, come abitudine appunto vai alla ricerca di alcune notizie anche particolari, anche curiose, anche meno note. Cosa hai trovato questa settimana per noi? Questa settimana c'è un po' di tutto. Allora, innanzitutto vi ricordate, ti ricordi Federico, Václav Havel, presidente della Repubblica Ceca? Sì. Colui che poi ha guidato, l'ex dissidente tra l'altro, che ha guidato anche la rivoluzione di velluto, che ha visto una separazione di fatto tra Repubblica Ceca e Slovacchia, dalla ex Cecoslovacchia, è una persona veramente che ha avuto e ha una vita incredibile, perché è stato poeta, è stato, lo dicevamo, dissidente, è stato rivoluzionario, è stato presidente e ora è anche un direttore di film. Sta infatti girando Living, che è un preso appunto dalla sua ultima commedia. Parla di una della storia di un politico che lascia a un certo punto la sua carriera politica e deve insomma fare i conti con una nuova vita, tanto che qualcuno ha insinuato che questo film sia anche un po' autobiografico. Quindi fa il regista? È diventato sì. regista? Sì, sì, addirittura io poi nei giorni scorsi ho visto sulla BBC, su BBC World, un servizio che lo faceva proprio vedere al lavoro, in mezzo agli attori, in mezzo appunto allo staff, e dietro la sedia da regista, no, che tutti conosciamo, c'era Havel. Fantastico, ok. Quindi può inserire anche questo nel suo curriculum. Poi? Restiamo in Repubblica Ceca, perché insomma c'è anche... Insomma, detta così fa un po' ridere, però insomma la notizia in sé è un po' più seria, ma c'è un istituto governativo ceco che ha inserito per errore sul proprio sito internet i nomi di 380 agenti segreti dell'era comunista, insomma dell'era della guerra fredda. Peccato che alcuni loro siano ancora in servizio, e quindi il direttore di questo istituto è stato immediatamente licenziato, perché ha messo diciamo un po' a rischio la sicurezza di qualche decina di agenti segreto tuttora in servizio, insomma postumi da guerra fredda, sì, in effetti. Mentre cambiamo completamente zona, andiamo giù, andiamo verso Cipro. Cipro Nord, anche qui si innesta su una situazione, come sappiamo, più seria, insomma quella del muro che ancora esiste di fatto tra Cipro, tra la Cipro europea e Cipro Nord, invece controllata di fatto dalla Turchia. Ha un suo governo, ricordiamo, però insomma è un paese satellite della Turchia, ha un'economia molto più povera rispetto a quella della Repubblica di Cipro, lo si sa, e allora per mettere grano nei forzieri, cosa si inventa? Si inventa il fenomeno dei casinò. Casinò per attrarre i turisti stranieri, ne parla l'agenzia France Press. E perché lo fa? Perché i casinò sono proibiti in Turchia, per cui tutti i turchi, ma non solo, anche turisti europei che vogliono giocarsi un po' di soldi e tentare la sorte, vanno a Cipro Nord. Quindi insomma, se questa estate siete a Cipro, magari fate un salto e dite che vi ha mandato Sergio Nava. Vabbè. Poi dove andiamo? Andiamo un po' più verso ovest, andiamo in Germania. Qui è una notizia, una bella notizia, devo dire, perché la Corte Costituzionale di Karlsruhe ha sentenziato che i padri single in Germania devono avere più diritti, perché fino ad ora, diciamo, il padre single dopo il divorzio, insomma, aveva pochi diritti verso i figli, diritti di custodia, ma non solo, diritti anche di decidere il futuro dei figli, l'educazione e tutte quelle scelte che poi insomma si fanno comunemente per un bambino. Finora il padre single, che restava single, aveva... Era discriminato di fatto, diritti. Sì, rispetto... Queste sono un po' legislazioni nordiche, noi siamo forse meno abituati, però le donne hanno molti più diritti, fortunatamente, al nord. Qui però si era posta quasi una discriminazione al contrario, e quindi è festa per il papà in Germania, dopo che appunto la Corte Costituzionale di Karlsruhe ha detto, beh, questo regime deve finire, quindi festa per i papà single in Germania. Che era anche il titolo di questo articolo, mentre andiamo in Romania? Sì, dove il quotidiano... Adevarul, anche qui notizia in sé un po' seria, però noi ci possiamo anche ridere sopra, perché parla dell'Accademia dei Mendicanti di Tandarei, città del sud-est della Romania, in cui c'è un quartiere gitano. Ebbene, questo quartiere gitano è costellato di ville del valore di svariati milioni di euro, tanto che la polizia rumena ha arrestato 17 persone con l'accusa di gestire una rete di mendicanti in Gran Bretagna, Italia, Spagna e Belgio, grazie anche alla complicità di poliziotti romeni che procuravano loro i documenti necessari per lasciare del paese, insomma. Sfruttamento organizzato, sì, direi. È un peccato perché poi ovviamente i soldi raccolti da questi mendicanti nei nostri paesi andavano a finanziare la costruzione di ville hollywoodiane a Tandarei. Ma peccato. E chiudiamo tuffandoci nei nostri mari. Ci facciamo un doppio tuffo. Doppio tuffo, doppio tuffo, perché allora il primo purtroppo è un tuffo nel Mediterraneo e secondo Pubblico, un giornale spagnolo, è il mare più a rischio del pianeta, anche perché c'è un esercito di oltre 600 specie aliene che ha invaso il Mediterraneo. Il Mediterraneo, lo sappiamo, si è scaldato negli ultimi anni, il riscaldamento globale ha alzato la temperatura anche del Mare Nostrum, questo ha portato specie dal Mar Rosso, che sono arrivate anche attraverso il canale di Suez, ma anche attraverso le chiglie delle navi, e sta cambiando la popolazione di pesci, ma stanno anche sparendo pesci tradizionalmente presenti nel Mediterraneo. Il titolo infatti è Il Mediterraneo se muore, il Mediterraneo muore. Stiamo attenti. Stiamo attenti, e stiamo attenti anche a lui, al protagonista della prossima notizia, vero? Eh già, perché ci rituffiamo, ma questa volta in una piccola vaschetta, la vaschetta del Polpo Paul. Famoso. Non ce lo siamo dimenticati. Io che poi ovviamente tifavo Spagna nella finale con l'Olanda, sono stato ben contento di vedere che il Polpo Paul ci ha azzeccato. Allora, gli olandesi hanno cercato di friggerlo, i tedeschi pure, ha evitato una doppia frittura e, diciamo, per premio gli stanno arrivando una serie incredibile di proposte di contratti pubblicitari. 160 proposte, lo dice Le Figaro, e questo è un articolo del quotidiano francese Le Figaro, che riporta come appunto il Polpo Paul abbia una quantità di proposte pubblicitarie in attesa. Il suo agente, però non dice chi è l'agente. Io vorrei un calamaro, le sta valutando. La cosa buona, devo dire, è che ha già messo in chiaro che tutti i proventi, pare che ci sia una catena di supermercati tra i candidati appunto ad avere il Paul come protagonista. Le Figaro ironizza dicendo non può fare pubblicità di profumi o pubblicità di lingerie, ma quantomeno di altri tipi di prodotti la può fare. Comunque l'agente del Polpo Paul ha già messo in chiaro che qualsiasi guadagno arriverà andrà in opere di carità. Ma speriamo. Un grazie a Sergio Nava, che ha letto per noi Quotidiani del Continente, la ricerca di notizie curiose. Sergio Nava, che sarà in onda oggi pomeriggio alle 15 con il suo programma Giovani Talenti. Grazie davvero Sergio, buon sabato. Grazie Federico, buon sabato anche agli ascoltatori. Europost-it. Il gorilla Muila festeggia in Gran Bretagna il suo 50° compleanno. Si tratta infatti di uno degli esemplari più anziani del pianeta. Nata nel 1960, la femmina di gorilla è già madre di 8 figli e nonna di parecchi nipoti. Per celebrare degnamente il suo anniversario, i curatori del parco che la ospita, Canterbury, hanno organizzato un vero e proprio party con tanto di invitati e regali a sorpresa. Paragonando gli anni dei gorilla a quelli della specie umana, questo esemplare potrebbe essere considerato ultracentenario. L'altra Europa. L'Europa, un continente da conoscere non solo attraverso notizie curiose, belle, divertenti o approfondimenti come quelli che facciamo qui nel nostro programma, ma un'Europa da conoscere vivendola. E ci piace darvi delle dritte anche per nuovi modi, nuovi stili per scoprire e conoscere l'Europa. E uno di questi modi può essere quello di essere ragazze e o ragazzi alla pari, e quindi vogliamo approfondire questa possibilità e lo facciamo attraverso un sito. È il primo portale ad essere nato proprio per organizzare scambi di questo tipo. L'indirizzo è www.huper.world.it. Abbiamo con noi una delle persone che lavora a questo sito in Germania e si occupa appunto della parte italiana. Diamo il benvenuto a Petra Langenberger. Ciao Petra. Ciao. Ciao, buon sabato, come stai? Bene, grazie. Allora Petra, essere ragazzi o ragazze alla pari, insomma, se ne sente parlare da tantissimo, voi da tanti anni lavorate con queste persone. Intanto, come è nato il vostro sito e perché è nato? Cioè, il mio superiore ha 3 figlie e ha avuto bisogno di una ragazza alla pari che poteva badare alle figlie, e ha contattato un'agenzia di collocamento alla pari e non le è piaciuto. Ha detto, ma non trovo quello che voglio, non offrono il servizio che mi serve. E poi ha deciso di programmare proprio il sito. Ha detto, non è necessario che le agenzie facciano il collocamento, voglio che la gente vada sul sito e cerca lo stesso personalmente. E quindi è proprio un altro modo, un altro approccio. E negli ultimi 5 anni più di 70.000 ragazze e famiglie hanno utilizzato i vostri servizi con successo, ma intanto si parla quasi sempre di ragazze alla pari e pochissimo di ragazzi. È una cosa solo per le femmine? No, ci sono anche ragazzi, ma non è così conosciuto. Le famiglie preferiscono le ragazze perché dicono: beh, le ragazze sanno cucinare, sanno stirare, si sanno occupare delle faccende domestiche. Forse è un pregiudizio, ma le famiglie si devono ancora abituare al fatto che ci sono anche maschi che lo sanno fare. Ecco, voi raccogliete anche un po' le storie di questi ragazzi, di queste ragazze alle pari. È un modo per immergersi in un'altra cultura, un modo per fare un'esperienza importante in un'altra nazione, giusto? Sì, giusto, è un modo di conoscere meglio la cultura, il modo di vivere, di imparare la lingua. Aiuta molto vivere proprio la vita quotidiana di una famiglia, così si impara velocemente, facilmente. È un buon modo. Ecco, ma e cosa deve fare un ragazzo o una ragazza alla pari quando arriva nella famiglia? Ha degli obblighi? Sì, ci sono delle regole che cambiano da paese a paese. Per esempio, in Germania una ragazza alla pari lavora 30 ore alla settimana, non più di 5 ore al giorno. L'accento viene messo sul badare ai bambini e poi ci sono leggeri faccende domestiche, spolverare, sparecchiare, lavare i piatti, okay, quindi queste cose, piccole cose per dare, sì, per dare una mano. Piccole cose per dare una mano alla famiglia, diciamo così. Mm-hmm. Sono tanti gli italiani che scelgono di fare il ragazzo o la ragazza alla pari? Sì, sono tanti, perché abbiamo visto che per loro l'inglese è molto importante, è la lingua più importante, e vogliono andare in Inghilterra, in Irlanda o anche oltremare, in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Sì, è molto, molto conosciuto, molto richiesto. Allora, ricordiamo il sito, che è www.operlinettaworld.it. Grazie davvero, Petra, buon sabato. Sì, grazie. Ciao. Ciao. L'altra Europa. L'altra Europa, un'altra Europa che adesso vi vogliamo raccontare attraverso un festival, il più grande festival d'Europa. Si chiama Sziget Festival, si tiene dal 9 al 16 agosto a Budapest, ma questo festival ve lo vogliamo raccontare attraverso una storia, la storia di una persona che questo festival l'ha conosciuto, l'ha frequentato da ben 17 anni e che grazie a questo festival ha trovato anche una compagna e grazie a questo festival ha abbandonato l'Italia per andare a vivere a Budapest, la città, secondo lui, più bella del mondo. Diamo il benvenuto a Giulio D'Angelo. Ciao Giulio. Ciao da Budapest a tutti. È davvero la città più bella del mondo, Budapest? Assolutamente sì, insomma, bisogna venire a vederla e poi provare per credere, insomma, ecco. E poi dal 9 al 16 agosto è ancora più bella perché c'è il festival più grande d'Europa. Allora Giulio, tu sei un pendolare europeo perché sei docente di storia della musica presso il Conservatorio di Trieste, ma vivi a Budapest. È facile, sì, vivere da pendolari in Europa? È molto facile, intanto siamo in piena Mitteleuropa e quindi, come dire, c'è tanta Mitteleuropa Trieste, ce n'è tanta naturalmente qui a Budapest. Io mi sento bene a casa in tutti e due i posti. Quando si parla dei paesi dell'est sembra sempre che si arrivi a Vladivostok. Da Trieste a Budapest sono 560 chilometri di comodissima autostrada, insomma, quindi si arriva facilmente, non è così lontano. Tu sei lucano, ecco, ti senti più italiano quando sei a Trieste o ti senti più italiano quando sei a Budapest? Ma devo dire che mi sento molto mitteleuropeo pur essendo lucano, perché veramente da tanti anni che sto fuori di casa e, come dire, sono orgogliosamente lucano naturalmente, ma questa lucanità l'ho un po' persa, anche perché sono nato e vissuto in un paese che è Rionero in Vulture, che è stato letteralmente, come dire, cambiato dal terremoto, c'è stata una ricostruzione, per cui il mio paese, il paese della mia infanzia, io praticamente non lo conosco più. Naturalmente ho la mamma giù a Rio Nero, ho parenti, però diciamo che non lo sento veramente molto più mio, insomma, ecco. Parliamo invece del festival che senti tuo, perché ci lavori da tanto tempo, sei responsabile per tutta quella che è la parte relativa all'Italia. Un festival, il Sziget Festival, che ha numeri grandiosi, ce lo puoi raccontare al di là dei comunicati stampa, insomma, che cosa rappresenta per l'Europa oggi questo festival? Beh, intanto ha due particolarità che lo rendono unico. Uno, che si svolge in una grande città e quindi, come dire, si può godere dei benefici di una grande città con tutto quello che può offrire in quanto a strutture e in quanto anche a ricezione turistica, per esempio. E però è un festival che vive di vittoria, perché si svolge in un'isola, l'isola di Ubuda. Sziget significa infatti isola in ungherese, e quest'isola diventa per una settimana una grande città capace di ospitare 40.000 campeggiatori, 80-90.000 persone al giorno, e fare numeri che si avvicinano al 500.000 nella settimana. L'altra particolarità del festival è che non è un festival di genere, ognuno trova quello che vuole, ci sono 1.000 spettacoli, 28 palchi, per cui ci trovi gli Iron Maiden, ma ci trovi anche Buona Vista Social Club, per esempio, o ci trovi, ed è la tenda che io preferisco, che amo di più, la vera musica zigana, che si suona per 12 ore al giorno in una tenda frequentatissima e bellissima, insomma, molto viva e vivace, ecco. www.sigetfestival.it è il sito dove potete trovare l'intero programma. Ma secondo te, Giulio, questo festival poteva nascere in una città diversa da Budapest, o Budapest ha proprio le caratteristiche per ospitare un appuntamento così importante a livello anche di contaminazione artistica e culturale? Ma diciamo che poteva nascere in un altro posto, ma è nata a Budapest, ed è nata in un momento particolare, immediatamente dopo i grandi cambiamenti, immediatamente dopo la caduta della cortina di ferro, insomma, ecco, perché si dice sempre la caduta del muro di Berlino. Il muro di Berlino di fatto è caduto in Ungheria, insomma, quando hanno aperto le frontiere a tutti, lì è stato il segno che era finito un mondo, era finita un'epoca, e quindi il festival nasce sull'onda di questo entusiasmo di giovani che finalmente scoprono il mondo che gli era stato precluso per tanto tempo, e quindi vogliono vivere insieme con gli altri. È stato immediatamente un festival frequentato da tantissimi stranieri, all'inizio per caso, in maniera sempre più continuativa e organizzata. Tanto per dare un numero, arriveranno circa 5.000 italiani al Sziget Festival, ma arrivano anche circa 12.000 olandesi, 8.000 francesi, 5.000 tedeschi, più tutti i ragazzi che arrivano dall'est Europa, insomma, ecco, e più gli ungheresi naturalmente. Giulio, al di là del festival, Budapest oggi che città è? Si vive bene? È accogliente? È vivace? È viva? Certo, c'è una grande crisi economica, e qui è più forte forse che altrove. Avrete sentito appunto della crisi ungherese, appunto. Però è una città che ha un'ottima qualità di vita, una città dove i servizi funzionano, è una città di 2 milioni di abitanti che però è sostanzialmente sicura, insomma, ecco. Io non ho mai un senso di insicurezza girando per la città. E poi è una città che sta diventando sempre più bella, perché hanno anche il coraggio di innovazione, insomma. Io sono stato ultimamente, mi sembrava di stare in una sorta di una bellissima città, però una sorta di Disneyland ad uso del turista. Budapest è una città forse di meno impatto immediato, è una città, come dire, da vivere e da capire un po' più lentamente, però secondo me con più fascino alla fine, ecco. Ecco, e oltre a Budapest, tu conosci l'intera Ungheria, viaggi spesso, hai avuto modo di vedere cosa c'è al di là della metropoli, al di là della città? Sì, certo, è un po' come tutte le città, le capitali intereuropee. Budapest accentra un po' tutto, insomma, ecco. Basti pensare che appunto su 10 milioni di ungheresi, 2 milioni e mezzo vivono intorno alla capitale, e quindi questo già vi dà un segno, insomma. Poi certo, ci sono città bellissime, quest'anno Specie è una delle capitali della cultura d'Europa, hanno dei bellissimi programmi ed è una bellissima città, io ho lavorato per 2 anni al Festival dell'Opera di Miskolc, anche quella è una città molto interessante, però direi che un po' come in Francia quasi tutte le cose succedono a Parigi, o si pensano a Parigi, in Ungheria un po' tutte le cose si fanno a Budapest o si pensano a Budapest. Spero che i tuoi studenti in questo momento non ti stiano ascoltando, ma l'hai imparato l'ungherese o rimane sempre quella lingua ostica che proprio non ti piace? Magionnesa, magiarul, de chicitudon besermi. Ok, ce la puoi anche tradurre? La lingua ungherese è molto difficile, però un po' so parlarne. Ok, insomma, e ce ne hai dato prove. Allora, l'appuntamento dal 9 al 16 agosto, c'è anche possibilità di campeggiare lì, che credo sia un'altra caratteristica molto bella di questo festival. Un festival adatto a tutti? Assolutamente sì, appunto dicevo, 1000 programmi, io non sono più giovanissimo e per esempio gradisco in particolare la tenda dei programmi di danza e di teatro e quelli appunto di musica zigana, ma mio figlio ha 19 anni e ogni sera in una tenda dove fanno, ahimè, per 18 ore al giorno heavy metal e cose del genere, insomma, ecco. Quindi non... Però ci andiamo insieme al festival, ecco. Ok, però tu quella tenda lì la eviterai, mi pare di capire. Beh, diciamo che non è proprio il mio genere, però in qualche modo questo festival aiuta anche il mio lavoro di professore, insomma, perché vedo quello che succede, vedo quello che interessa i giovani e vedo quello che producono i giovani e quindi, come dire, mi tengo aggiornato anche a beneficio dei miei allievi, insomma, ecco. www.zigetfestival.it, grazie davvero Giulio e buon festival. Vi aspettiamo naturalmente. Magari. Ciao, buon sabato, ciao ciao. Ciao, Budapest, ciao ciao. Europost-it. Svariati milioni di euro. Questo è il valore ancora da stimare precisamente di un pianoforte ritrovato in Germania mercoledì 4 agosto. Perché lo strumento è tanto costoso? Semplice. L'artigiano che avrebbe costruito il gioiello, un pianoforte a coda lungo 1,50 m, sarebbe Christian Baumann, uno degli artigiani preferiti di Wolfgang Amadeus Mozart. E pensare che Martin Becker, possessore del pianoforte e anch'egli costruttore, aveva acquistato lo strumento nel 1980 da un antiquario di Strasburgo, cercando poi di venderlo su eBay alla modica cifra di 40.000 euro. Non trovando acquirenti, lo aveva rimesso in cantina, fino a che un esperto, riconoscendo lo strumento proprio sul noto sito di aste online, chiede di visionarlo, accorgendosi che probabilmente quel pianoforte faceva parte della scuderia di Mozart. Pare che Mozart parlasse di questo pianoforte in alcune lettere scritte al padre. Un team di esperti è al lavoro per assegnare il giusto prezzo allo strumento, presumibilmente fabbricato proprio da Baumann nel 1775. L'altra Europa. E termina qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra che ha permesso di realizzarla, da Alba Chiara Rondelli a Danita Panizza, a Luca Rinaldi, alla parte tecnica a Paolo Corleoni. L'Altra Europa @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete farvi vivi. La puntata è ascoltabile in podcast dal sito radio24.it. L'appuntamento è a sabato prossimo, mentre domani alle 17 sono in onda con Mine Vaganti. Ciao!